Ecco un rapido riassunto sulla Basilica di Santa Teresa ad Avila. Scopriremo i segreti di questo magnifico complesso barocco del XVII secolo, eretto esattamente sul luogo di nascita di una delle figure mistiche e riformatrici più influenti della storia cattolica, unendo un'architettura a dir poco geniale a un'eredità spirituale senza tempo. Primo, l'orientamento architettonico è davvero unico. Sai, di solito le chiese tradizionali guardano verso est, giusto? Beh, questa, costruita tra il 1629 e il 1636 dall'architetto carmelitano Fray Alonso de San José, è rivolta a nord. Una scelta super ingegnosa, fatta appositamente per far coincidere l'altare maggiore proprio con la stanza esatta in cui nacque la santa, nel 1515. Secondo, ci sono tesori sotterranei e capolavori scultorei incredibili. L'edificio nasconde infatti una grande cripta avvolta sotterranea, una vera e propria rarità nell'architettura religiosa spagnola. Oggi funge da museo per le reliquie e gli oggetti personali di Teresa. E poi, salendo all'interno della chiesa a croce latina, rimarrete a bocca aperta davanti alle straordinarie sculture barocche del maestro seicentesco Gregorio Fernandez. Infine, parliamo di un'eredità monumentale in continua crescita. Il sito, dichiarato monumento nazionale nel 1886 e basilica minore nel 2022, è un tributo vivente alla santa. Oltre a ospitare una comunità di carmelitane scalze, celebra la donna che ha scritto opere fondamentali come Il castello interiore e che, pensate un po', nel 1970 è diventata la primissima donna a essere dichiarata dottore della Chiesa. La basilica si rivela così non solo un trionfo dell'arte barocca spagnola, ma un portale tangibile che ci permette di camminare, letteralmente, sui passi di una delle più grandi menti spirituali della storia.